Bello questo ukulele, K. Non è un ukulele. Ma come non è un ukulele? È un ukulele. No, non lo senti che ha le corde metalliche, senti? Questo è il cavaquinho, il fratello brasiliano dell'ukulele. Saluta. Ibelo. Ma cos'è ibelo? Il brasiliano, ha detto. Obrigado. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. No, non fare l'afono, dai. E un saluto da Drago. Da Drago. Drago, oggi è venerdì, weekend. Quindi, no, oggi tutte le volte dici le stesse cose. Sì, no, però ti dico, ti avverto che il prossimo weekend comincerà prestissimo. Comincia giovedì, anzi mercoledì è già weekend. Dici l'asilo è sempre aperto, K, no. Sveglia. Come? Ma c'è Sant'Ambrose, Drago, c'è l'Immacolata, poi c'è il weekend vero e proprio, quindi tu fai un giorno da fannulloni. Per i fannulloni è una settimana così, per quelli normali. Ma poi Brunetta se n'è andato. Noi persone responsabili non possiamo sospendere il nostro impegno in momenti così gravi. C'è sì, la crisi. Vabbè, ma noi non siamo mica il governo, la BCE, la BCE. BCE. Eh già, come si dice in francese? BCE, non che lo so. Beh. Ma cosa, vabbè, comunque noi siamo due inviati in un asilo. Bravo. Possiamo anche stare a casa per un po', non è che voglio dire. Ma non li leggi i giornali, dove vivi? Rischiamo di svegliarci ogni mattina senza più il paese, capito? Cosa fanno? Lo cancellano dalle mappe geografiche. Tu scherza. Intanto qui, a forza di scherzare, siamo arrivati al punto che per il 2012 è previsto che smettano perfino i flussi dei migranti. Cioè l'Italia gode di così scarsa pubblicità che perfino i profughi la evitano come la peste, cioè la peste. E dove vanno? In Grecia, in Spagna, sono messe peggio di noi. No, se ne stanno a casa, non si muovono più. Vedi cosa? Se ne stanno a casa e anche noi dovremmo fare così, come i profughi. Ce ne stiamo a casa la prossima settimana. Ce ne stiamo a casa. Che noi siamo messi peggio dei profughi, per cui non possiamo permetterci di starcene a casa. Dobbiamo venire a lavorare. Ah sì, è la prima della scala? Cosa? Ma ce la perdiamo. Ma sono mai andato una prima della scala? Ah, nemmeno io. Allora? Infatti. E ora, bambini, ricreazione. Uè, sentite un po'. Ciao, bambino Alberto. Ciao. Tutto bene, chiedervi. Stai bene? Ti vedo sì. Bene, bravo, bene. E no, bene. Amici, volevo Basta. Chiedervi, a proposito della recita di Natale, no? Sì. Dei regali, quello lì. Sì, e sì. Voi non mi regalate niente. Boh, in effetti, visto perché ci vediamo così abbastanza spesso, una volta sì, un giorno sì, un giorno no, magari un regalo, dai, vabbè, cosa vorresti da noi? Allora io avrei già un'idea precisa, no? Dimmi. E tra l'altro per voi non implica neanche una spesa di euro. No. Voi che siete introdotti nel mondo dello spettacolo, dello show business, no? E voi non è che poteste farmi conoscere Fiocco di Neve, Fiocco di Neve, chi è? Ma come chi è? È la star dei provini di X Factor. Ah, sì. Schifo, io sono la star dell'asilo e la star dei provini di X Factor. Vabbè, la star anche lei, insomma. Sì, perché ho visto su YouTube il suo provino di X Factor, no? E anche i video dove lei fa Katy Perry. Hilary Duff travestita e canta, no? Sì. È bravissimo, è preso una sbandata. Ma no, ma non no, si chiama così, ho visto il suo vocabolario perché sento delle cose. Il pù della faccia, i formicolio alle mani. E questo è, in realtà, sudo freddo. Ho preso una sbandata. E quindi ho preso una vera sbandata per Fiocco di Neve. Ma vabbè. No, è una ragazza eccezionale. Ma è una cosa. Non solo è bellissima, perché è bellissima, è bionda, con delle labbra pronunciate. Poi ha stile, canta benissimo. Sì. E voi direte la solita velina? No, perché è anche intelligentissima. Ah, sì. Questa scrive libri. No. A 19 anni. Ha vinto 70 concorsi letterari. A 19 anni. Ma quando gli ha scritto? 70 concorsi letterari. Premi Canori, concorsi di presenza scenica. E ho detto tutto. E ha solo 19 anni. Beh, ma 19 anni comunque. Io un po' l'ho vista, sì. Comunque ho un po' dei dubbi che vada bene per te. Un po' grande. Beh, grande comunque. A 19 anni sarà giovane, ma per te sempre grande. No, qui vi volevo. Bambino Alberto, sì, arrossito. Ecco qui, dovevi. No, qui vi volevo. Ah, qui ci volevi. Ho capito. Qui vi volevo. Perché non avete visto tutto. Su YouTube c'è anche un video dove lei parla di lei, no? Che dice su Facebook mi hanno chiesto di parlare di me, dell'amore, e io. E parla dei suoi flirt. E dice che gli piacciono i ragazzi più piccoli. Più piccoli. I ragazzi più piccoli e con le lentiggini. Ma come? Ma non ha neanche le lentiggini. E poi gli piacciono i ragazzi più giovani, più piccoli, non i bambini piccoli. No, lei dice più piccoli, più piccoli. Ma no? Non hai le lentiggini, quindi. Beh, allora, le lentiggini non le ho e me ne vanto. Però sono pieno di lei. Lei possono essere un surrogato delle lentiggini. Poi, che schifo. Un surplus! Un surplus. E poi comunque quelli sono affari miei. Vabbè. poi deve solo farmela conoscere. Poi sì, il resto ci penso io. Ma no? Io non la conosco nemmeno, cioè proprio zero, mai visto. Tu capa se vuoi recuperare il telefono. No, che poi qui, io ho visto i suoi video decine, decinaia di volte. Decinaia. E quindi ormai la conosco come le mie tasche, sì. No? Quindi conosco anche i suoi punti sensibili. Ma quali punti sensibili? Ma dai, ma smetti. Ma cerca poi di non essere volgare. Ancora? Si parla di ragazzi. Voi vivete con la fissa in testa, eh? Allora, intendevo dire quegli aspetti della sua sfaccettata personalità, perché è così, no? In cui io posso insinuarmi per conquistarla. Ma chi tu? Magari lei ha una indole letteraria. Sì, anche tu adesso. Adesso ti faccio arrossire. Questa qui ha vinto il premio Gronchier. Gronchier. Il premio letterario. Ma Gronchier era un giocatore della cos'era? Della Danimarca. Ma era presidente della Repubblica. Gronchier. Ah no, Gronchi. Ah, scusa. Vabbè, ma cosa dici? Ma poi cosa scrive Fiocco di Neve? Cos'è? Poi perché si chiama così? Ma c'è una spiegazione. Guarda, questo è un artista tutto tondo. Gli spiega perché ti chiami Fiocco di Neve. Perché? Perché io è affascinato dalla neve e poi mette sempre un fiocco ai polsi. E quindi Fiocco di Neve, no? Allora, ma poi che animo sensibile. Ma senti, ma è il tipo che scrive racconti tipo Harmony, che Harmony! Scrive un po' di tutto, eh! Libri fantasy, d'avventura, e poi anche libri impegnati, sì, profondi! Ah, profondi! Sì, roba che se non ci stai dietro ai discorsi, non capisci niente. Sono storie complesse, lo dice lei. Un piccolo genietto, insomma, questo film. Rimbaud, 19 anni. Non fate gli spiritosi, poi col tempo ve ne accorgerete. I talent scout, questi due. Vabbè. Qui siamo al cospetto di un fenomeno artistico, eh? E anche umano, direi. Vabbè, approfondiremo. Non vorrei dire, qui siamo a livelli di Gemma del Sud. Anche oltre. Vabbè. E con questo. Gemma del Sud è la preferita di Nicoletti. Sì, comunque, Gemma del Sud, vabbè, hai detto tutto davvero. Tu e Nicoletti potreste trovare un terreno comune. Magari telefona a Nicoletti. Sono due artiste molto diverse. Magari non ce l'ha il numero di Fiocco di Neve. Infatti, prova a chiedere a Nicoletti. Senti, facciamo così: ti diamo il numero di Nicoletti. Lo chiamo alle 10, tanto avete la pausa, no? All'asilo c'è la pausa. Alle 10. Se poi ci dico che devo telefonare alla radio. Infatti. Basta che dico che sono dell'asilo. Ecco, perfetto. Guarda, così ti diamo il numero di Nicoletti e poi lo chiami. Degli, ce l'hai tu? Sì, sì, dai, te lo do adesso in diretta proprio. Sì, ma voi gli dite prima che lui. Gli mandiamo magari un messaggio. Quello è meno sasso, no? Chiamo. Allora. 335 000. È scritto, Gildo? 135 00492. Giusto? Sono un po' pochi, però. Prova. Pronto? È Nicoletti. Ma è Lidl? Questo è il numero del Lidl? No, senti, guarda, io la prossima settimana davvero devo assentarmi, cioè mi spiace. Devi proprio andare via, ma allora dillo, no? Ma cosa devi fare? Ho prenotato in Svizzera, per il ponte in Svizzera, ma dai. Non lo facciamo il ponte. Ma io pensavo di sì, ho prenotato, Drago. In Svizzera, tu pensavi, in Svizzera dove? Vuoi saperlo? Engelberg. Nella regione del lago di Lucerna. E come facciamo qui con l'asino, scusa? Non so, vieni anche tu. A Engelberg. La montagna dell'angelo, no? Engelberg. Non ti piacerebbe? Ma la Svizzera non mi interessa. Ma perché? Poi devo restare all'asilo almeno io, sennò ci cacciano qui, ma capito? Come la Svizzera non ti interessa? È la patria di Federer. Ebbene, la patria di Federer tra gli altri. Drago, Federer ha appena vinto il sesto Masters a Londra, ti rendi conto? Svizzero. A Londra, mica in Svizzera, piuttosto andiamo a Londra. Ma quale Londra? Londra, Schweiz. Oh, l'Alp. Schitt, maniaco, vuoi vin? Cos'è questo? Bisogna sich das weiß. Fammi da scolo. Ma questa che lingua è? Questa è svizzera. Ma no. Sta zitto un attimo. Dice se l'inverno. Un paese da. E queste formiche? Sono loro che a dirmi come sarà l'inverno. Accidenti. Guarda che cosce da sciatrice. Ma cosa stai dicendo? Ah, la formica. Ah, ci picchia, questo cos'è? Ah, c'è anche una formica olandese. Ho capito, questa è la pubblicità che va in onda nelle TV dove c'è quel vecchietto pieno di formiche che gli camminano addosso. Vedi, da noi la Svizzera, non si sa perché vengano qui in Svizzera, ma ci sarà un motivo. Il motivo è che ci sarà un inverno strepitoso. Senti, senti. Secondo me questa è una pubblicità razzista. Vieni da noi, mica mordiamo. Sì, però fa vedere che le formiche invadono la Svizzera e sono gli stranieri, secondo me. Vabbè, ma sono svizzeri, no? Sono razzisti, no? Eh. Questo non è l'inno svizzero, questa è la roba dell'ovo maltina degli anni 70. Va bene, non aveva neanche la canzoncina, non c'era, te la stai inventando. Quindi apprezzate questo sforzo di improvvisazione. Va bene, allora è venerdì, quindi dobbiamo salutare tutti: Carmelo Lauricella, Laura Faggin, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Tommaso Varvello. Un saluto da Capedrago, ci risentiamo lunedì. Chiedo asilo @radio24.it.